la funzione di ciascuno dei predetti gradi. La lettura cerca la dolcezza della vita beata, la meditazione la trova, la preghiera la chiede, la contemplazione la gusta. La lettura porta, in certo qual modo, cibo solido alla bocca, la meditazione lo mastica e frantuma, la preghiera lo assapora, la contemplazione è la stessa dolcezza che dà gioia e ricrea. La lettura si ferma alla scorza, la meditazione penetra nel midollo, la preghiera formula il desiderio, la contemplazione si diletta nel godimento della dolcezza raggiunta. Perché ciò che si possa vedere in modo più chiaro, proponiamo un esempio tra i molti che si potrebbero portare.